Ben ritrovato Paolo Orlandelli. Ciao Federico, come va? Ciao a tutti, Tutto. grazie per il vostro interessamento, la vostra simpatia di sempre e tutto quello che fate per il teatro. Grazie. Allora Paolo, con te oggi sotto la veste di regista perché porti in scena lo spettacolo Processo dell'Utri al Teatro di Documenti 27 e 28 febbraio. Ce ne parli un po', Paolo? Sì, certo, intanto vi annuncio che faremo una replica straordinaria il 1° di marzo, giovedì, perché ci siamo dovuti adattare nella disponibilità del teatro che era programmato e quando abbiamo deciso di fare lo spettacolo era già gennaio, praticamente abbiamo deciso di farlo dopo che sono uscite le date delle elezioni e abbiamo ritenuto che fosse importante riproporre questo processo, questa lettura di testimonianze che sono state rese nell'ambito del processo a carico di Marcello Dell'Utri, poi condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, proprio sotto elezioni, perché vogliamo ricordare qual è quel passaggio storico che ha portato alla nascita e all'incarico di governo di Forza Italia di Silvio Berlusconi, il quale tramite Marcello Dell'Utri ha avuto rapporti intensissimi con Cosa Nostra. E io che ti dico la verità non mi sono mai occupato di politica, ho sentito l'esigenza sotto elezioni di ripetere questi concetti che sono, come sempre, nei miei lavori ufficiali, documenti, verbali e atti giudiziari, non sono assolutamente frutto della mia immaginazione. Perché mi sembra che ci dimentichiamo di cose molto importanti, che poi per arrivare al governo ci si allea con chiunque, ma veramente io ti dico che se faccio un bilancio degli ultimi 20-25 anni, credo che proprio l'impronta di Berlusconi sia quella che ha portato l'Italia a ciò che è adesso, ma io ti parlo proprio anche a livello culturale, a livello umano, sociologico. Credo che ci sia proprio una decadenza a livello di valori, forse dovuta proprio a questo imprenditorialismo che si è impossessato della politica. Io, ecco, ti ripeto, questo te lo dico con la pancia più che con la testa, e con i pochi mezzi che abbiamo cerchiamo di amplificare questo messaggio, nella speranza appunto che il teatro possa in qualche modo risvegliare un po' l'attenzione e le coscienze intorno ad argomenti che ci interessano. Veramente noi abbiamo sempre l'idea che non possiamo cambiare la realtà, invece se tutti ci mettiamo in un atteggiamento più consapevole, più costruttivo, forse ce la possiamo fare. Io ti dico la verità, io direi che adesso anche basta, no, con Silvio Berlusconi. Poi ognuno votasse quello che vuole, ma direi veramente basta. Tra l'altro Dell'Utri adesso hanno chiesto 12 anni per la trattativa Stato-mafia, quindi diciamo che sono ancora dei temi attuali e ancora in qualche modo vivi, vivi e scottanti. Senti Paolo, allora da quello che mi dici, una drammatizzazione di atti giudiziari. Ecco, come hai attraverso il tanto materiale che avevi, quale hai scelto per questa. Ottima domanda come sempre. Io in sostanza ho fatto una spremuta di un volume che si chiama Dossier Dell'Utri, che è stato pubblicato proprio dai pubblici ministeri Ingroia e Gosson, che raccolgono tutto il materiale di questi processi, e ho cercato di seguire un arco narrativo che va dagli anni 70, quando Silvio Berlusconi chiede protezione tramite Dell'Utri a Cosa Nostra contro la minaccia di sequestri, perché era stata promulgata una legge in Sicilia, una legge mafiosa che non si facevano più sequestri in Sicilia, perché si andava sempre ovviamente a toccare magari altre famiglie mafiose, e perciò si spostano al nord. Riceve molte minacce, Berlusconi, ci sono molti imprenditori, figli di imprenditori rapiti, e lui si mette in casa questo Vittorio Mangano, che è un personaggio anche comico, perché poi lui doveva proteggere Berlusconi, ma gli fa dei furti, gli fa degli attentati, addirittura sequestra il principe d'Angerio, che era un ospite di Berlusconi, solo che poi la macchina va a sbattere per la nebbia, per cui poi il colpo viene sventato, molto pittoresco. Ma questi rapporti che Berlusconi instaura tramite Dell'Utri con Stefano Bontate poi si traducono anche in passaggi di denaro molto ingenti, riciclaggio di moltissimi miliardi che, venendo eliminato poi fisicamente montate, apparentemente Berlusconi non ha mai restituito. I soldi che servivano a costruire quando c'era Edil Nord, a creare le divisioni e poi a mantenere questo impero che era Mediaset ma che costava moltissimo. Quando poi Riina subentra a Bontate, viene raddoppiato il pizzo a Berlusconi, ma in sostanza i rapporti continuano e quelli sono proprio gli anni appunto del Pullmani Pulite, della crisi della Democrazia Cristiana e del Partito Socialista e dell'inaugurazione di questo nuovo movimento che si chiama Forza Italia e che raccoglie moltissimi appoggi da parte di esponenti mafiosi, non solo mafiosi. Diciamo che Forza Italia ha raccolto anche un po' un voto di protesta allora, ma come Antonino Giuffrè in questo processo dichiara, la mafia ha sempre cavalcato i cavalli vincenti. Quindi noi abbiamo 10 testimonianze di questi collaboratori di giustizia, ma non solo, che sono 5 al primo tempo e 5 al secondo tempo, sono un'ora e un'ora, abbiamo i due magistrati che interrogano, con la lettura del capo dei capi di imputazione all'inizio, la requisitoria finale, ovviamente molto stringata, sul finale. E quindi, come ti dicevo, seguiamo questo arco narrativo che va dagli anni 70 fino alla nascita di Forza Italia. Senti, quali saranno e quanti saranno gli attori a interpretare? Allora, gli attori sono 9 e alcuni fanno il doppio ruolo tra primo e secondo tempo, mentre altri fanno un ruolo singolo. Sono per la maggior parte attori siciliani, veraci, e sono Giuseppe Alagna, che è anche produttore dello spettacolo, Rosario Altavilla nel ruolo di Ingroia, Simone Borrelli, che invece è un napoletano e fa l'esponente di un camorrista, perché anche la Camorra aveva investito denari al nord nelle imprese di Silvio Berlusconi, Toni Caporale, Elio Crifò, Ivan Giambirtone, Giuseppe Grisafi, Pietro Pace e Natale Russo. Un bel cast di attori super professionisti, infatti io dico sempre, è una lettura, perché lo voglio dire, perché è così, ma tutti dicono, ma no, è uno spettacolo, sono così bravi, è una lettura interpretata. Poi qui rientriamo nel solito problema di capire cosa è teatro, cosa non è Sì, teatro, sì, sì. Sì. però diciamo che è una cosa che vale la pena di ascoltare, è un approfondimento secondo me molto utile, direi che veramente dobbiamo cercare di sviluppare degli anticorpi di fronte a certi fenomeni che sono oramai veramente non più accettabili, anche perché hanno prodotto degli epigoni. Adesso non faccio nomi, però io sono convinto che il modello Berlusconi si sia poi perpetuato nelle nuove leve, insomma, della politica, che è una politica di affaristi più che di ideologi o di persone preoccupate o di statisti, ecco, non se ne vedono più, sono proprio dei faccendieri questi politici di oggi, è la mia impressione, dico. Sì. Bene, Paolo, ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più su questo spettacolo e su il tuo lavoro in generale? Teatro di documenti, in realtà ecco, io non ho un sito specifico e non sono un tipo molto tecnologico. Comunque, ripeto, 27, 28 febbraio, 1 marzo a Teatro di documenti, col processo dell'Utri, speriamo di avervi qui a soffrire insieme a noi, umilmente. Paolo, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, crepi il lupo, ti aspettiamo. Ciao Federico, grazie Ciao. mille.